Dai stasera chiama, va. Da domani, da domani. Dai stasera chiama, va. Sì, ma da domani, da domani. Sto periodo sto talmente in para che gli ho dato un nome, si chiama Rozzana. E non è il nome di qualche puttana. Fa solo rima con sana. L'ho preso senza ricetta da un amico che ne ha fatto incetta e lo rigetta. Mo che per qualsiasi cosa c'è una fonte certa. Alza la colletta, droga a casa ti aspetta. Milano come gota, il diavolo che ti sfiora la gota. La coca, carioca, l'infame, scariota. La ruota, la gente bionica e riprodotta. La gioia psicoindotta, Tony che vivo rosca. Le mie amici siamo spenti con lo sguardo altrove. In hangover col magone, in corpo quattro droghe. Tutti stanchi per la corsa, per le banconote. Per qualche stronza che ti costa tanto quanto gode. Erba, coca, cheta, meta. Dai stasera chiama, va. Meta, buona, ruota, scheda. Da domani Ramadan. Oggi festa, la mia testa gira tipo Tagada. Sì, ma da domani Ramadan. Ramadan, Ramadan. 5 grammi in 3 persone, guarda c'è la K. Poi se vai sotto pressione, scialla c'è la K. Ogni tiro un propulsore, la mia merda spazza. Tu vai in giro col pulsone, fra c'è l'erba gatta. Sa che tutto quanto finto, proprio come i breakfast. Ma anche oggi hai fatto il dritto con il Pony Express. Dice che c'è un tipo tipo un baza. La guarda ti dice il taglio tipo Shazam. Dal pusher mentre conta i soldi. Ci sta un tipo tipo non parlarne con mia moglie. Se ne balza il passo un sasso dentro il portafoglie. Sa che la droga dà, che la droga toglie. Io ogni mattina cartina e caffè. Fumo un grammo a colazione, due prima del tè. Quando schiaccio play risento ogni rima per tre. Sono Carco Bane e Hemingway prima del band. Erba, coca, cheta, meta. Dai stasera chiama, va. Meta, buona, ruota, scheda. Da domani Ramadan. Oggi festa, la mia testa gira tipo Tagada. Sì, ma da domani Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Ah, appena sono andato in Inghilterra ho chiesto subito dov'è che vendono l'erba. Ci sono stato un anno e qualche mese, per questo conosco tutte le droghe. Però non parlo inglese, non contiamo le spese. In un giorno parte un mese, cominci felice, finisci in storie più tese. In qualunque paese tu vada la trovi, qui la vende Alibaba e i 40 ladroni. Un giro in città, vedo il buio, sento il vuoto. Ma che lucidità, frattene anche messo in moto. Fammi pubblicità, dillo a tutti, me ne fotto. 20 grammi di cia, rassi imboscati qui sotto sulla traccia, fuoco, magma, non è un gioco, fibra, madman. Arriva la bufera qua, fumo dentro un caravan. Dai stasera chiama Fry, da domani Ramadan. Erba, coca, cheta, meta. Dai stasera chiama, va. Meta, buona, ruota, scheda. Da domani Ramadan. Oggi festa, la mia testa gira tipo Tagada. Sì, ma da domani Ramadan. Ramadan, Ramadan.